Se chiedi a Margherita Hack quando è stata la prima volta che ha scelto di diventare astrofisica, ti risponderà così. Mai, quando ho cominciato a fare la tesi, mi è capitato di scegliere, ho dovuto scegliere una tesi in astrofisica, perché quella che volevo fare era elettronica e il professore dell'elettronica me la dava volentieri e il direttore invece mi ha detto un altro argomento, nell'elettrostati. La prima volta per Margherita Hack come astrofisica è stata dunque per caso. Era forse lo stesso caso che da piccola l'aveva fatta vivere a Firenze in via delle 100 stelle. Eppure, la passione per lo studio arriverà molto tardi. Sarà invece lo sport a caratterizzare l'infanzia e la giovinezza di Margherita. Federico Taddia, autore e scrittore, è uno dei più intimi amici della Hack e ci racconta questo. La sua passione da giovane era lo sport, era quella la sua benzina quotidiana e anche se le chiedi ma tu che ragazzina eri, che adolescente eri, lei ti dice quello, una non appassionata più di tanto allo studio. Fu rimandata in matematica alle scuole superiori un anno, ma perché litigava spesso con l'insegnante di matematica, faceva finta di leggere il giornale di nascosto, in verità il giornale era dentro alla cartella ed era un lunedì e il giornale in questione era la Gazzetta dello Sport, perché lei era tifosissima della Fiorentina e il lunedì quindi leggeva sempre la Gazzetta.